Pavimenti in resina. Siamo caldi, scottiamo, prendi una presina. Bolle nella testa come sciabba a Manila. Roba che scatta come un posto di blocco. Colla nel collo, pacchi fino al midollo. Occhi a chi ti confessi. Siamo alieni da un altro spazio. Non sei te stesso, ti stai sforzando. Sto con Nino e stiamo solo giocando. Se non parli di quello sai che non ti ascoltiamo. Abbiamo le mani in pasta come un fornaio. Nel mio rione sai che sono il fornaio. DPG torna a casa, apri il salvadanaio. La tua misera carriera in un solo anno. Pavimenti in resina. Siamo caldi, scottiamo, prendi una presina. Bolle nella testa come sciabba a Manila. Roba che scotta come un posto di blocco. Colla nel collo, pacchi fino al midollo. Occhi a chi ti confessi. Siamo alieni da un altro spazio. Non sei te stesso, ti stai sforzando. Sto con Nino e stiamo solo giocando. Se non parli di quello sai che non ti ascoltiamo.